Storie italiane. La scimmia e il coccodrillo. C'era una volta, nel mezzo di una fitta foresta, un grande fiume. In quel fiume viveva un vecchio coccodrillo. Non era più in grado di cacciare perché era debole e stanco. Un giorno era molto affamato, quindi pensò tra sé e sé: è così difficile andare a cacciare sulla terra. Proverò a catturare qualche pesce del fiume, sono così affamato. Ma quando cercò di catturare il pesce, gli sgusciò dalle mani. Stanco ed abbattuto, il coccodrillo decise di riposare sotto un albero in riva al fiume. Sul ramo di quell'albero c'era una scimmia che mangiava delle bacche. Il coccodrillo vide la scimmia e le chiese: oh, cara scimmietta, cosa stai mangiando? Potresti darmene un po', per favore? Ho così tanta fame. Queste sono bacche, sono molto dolci. Eccole, mangia queste. Oh sì, sono così dolci. Grazie, mia salvatrice, ero così affamato. E tu mi hai aiutato, sei stata così gentile. Sarei davvero così felice se potessi avere un'amica come te. Sì, sì, perché no? Adesso siamo amici. Io vivo su quest'albero. Quando sarai affamato, potrai sempre venire qui e ti darò le miglior bacche che potrò trovare. Da quel giorno in poi, il coccodrillo continuò ad andare all'albero e la scimmia ogni volta gli dava delle bacche. Si divertivano molto insieme. Erano anche diventati ottimi amici. A volte il coccodrillo andava a giocare vicino all'albero, altre volte la scimmia si sedeva sul dorso del coccodrillo e insieme andavano in giro per il fiume. Ascolta, amico mio, vorrei che mia moglie avesse alcune di queste bacche. Non è che potresti darmene un po', per favore? Le porterò a casa per lei. Sicuro, le raccoglierò subito, andiamo! La scimmia raccolse allegramente delle bacche e gliele diede. Il coccodrillo le portò allegramente nuotando alla moglie, la quale si trovava dall'altra parte del fiume. Tesoro, guarda cosa ho portato per te! Alcune bacche dolci, la mia amica scimmia le ha mandate per te! Oh, wow! Queste bacche sono molto dolci. Ma caro marito, fino a quando sopravviverai di sole bacche? Pensa, se queste bacche hanno un sapore così dolce e la scimmia le mangia ogni giorno, quanto sarà dolce lei? Sì, sì, lei è così gentile. Le mangia sempre e poi le dà anche a me. In realtà stavo pensando a quanto sarà dolce il suo cuore. E poi non mangio carne da molto tempo. Puoi prendermi il suo cuore? Sentendo queste parole, il coccodrillo iniziò a pensare intensamente e disse a sua moglie: oh, come potrei farle questo? La scimmia è mia amica. Non posso tradire la sua fiducia. Se dovessi darti il suo cuore, lei morirà. Lei mi ha nutrito quando ero affamato e tu mi chiedi di ucciderla? Non voglio nemmeno ascoltarti. Io voglio il cuore di quella scimmia. Vai e prendilo per me. Altrimenti mi ucciderò! Ascoltando sua moglie, il povero coccodrillo si sentì impotente. Tristemente andò dalla scimmia per provare a convincerla ed accompagnarla a casa da sua moglie. Cara scimmia, mia moglie è così felice per le bacche che ti ha invitato a casa per pranzo. Vieni su, andiamo a casa, vieni a pranzo da noi. è così gentile. Andiamo! La scimmia acconsentì ad andare con il coccodrillo ed entrambi partirono. Stavano andando allegramente. Mentre viaggiavano da un po', la scimmia chiese: amico mio, cosa cucinerà tua moglie per noi? Tu ami le banane, vero? Oh, quindi preparerà un dolce alla banana appena sformato, con alcuni deliziosi biscotti solo per te. Che bello! Sembra proprio che ci sarà un bel pranzetto oggi. Ho già l'acquolina in bocca. Guardando la felicità del suo amico, il coccodrillo pensò che avrebbe dovuto dire tutto sulle intenzioni della moglie alla scimmia. Povera scimmia! Lei si aspetta un pranzetto delizioso, ma non sa che mia moglie vuole mangiare il suo cuore per pranzo. Cosa dovrei fare? Dovrei dirle la verità. Oh, cara scimmia, devo proprio dirti una cosa. Mia moglie vuole mangiare il tuo cuore. Ti prego, perdonami. Se lei non mangerà il tuo cuore, mi ha detto che morirà. Non appena sentito il coccodrillo, le venne immediatamente in mente un'idea. La scimmia era molto intelligente. Oh, capisco. Sì, certo, perché no? Amico mio, perché me ne parli solo adesso? Noi scimmie teniamo al sicuro i nostri cuori sugli alberi. Torniamo indietro a prendere il mio cuore. Riportami indietro al mio albero. Oh, che stupido sono stato. Ora dovremmo tornare indietro. Ok, torniamo indietro e prendiamo il tuo cuore. Se tornassimo a mani vuote, lei mangerà il mio cuore al posto del tuo. Il coccodrillo riportò la scimmia all'albero. Non appena la scimmia giunse l'albero, fece un salto dalla schiena del coccodrillo, si arrampicò e gli disse: sciocco di un coccodrillo, come pensi che sia possibile vivere tenendo il proprio cuore fuori? Ti ho aiutato come amico e ti ho anche dato da mangiare. E adesso cos'è che vuoi darmi in cambio? Sei un traditore! Non avrai mai il mio cuore e neanche le bacche! Vai via! La scimmia usò la sua furbizia e l'intelligenza per salvarsi la vita. Il coccodrillo, a causa della sua stupidità, perse entrambi, un grande amico e le dolci bacche. Quindi, ragazzi, vi è piaciuta la storia? Qualcuno sa dirmi qual è la morale? Non so. Nemmeno io lo so. Molto bene. La morale di questa storia è che in tempi di pericolo e difficoltà non dobbiamo aver paura. Dobbiamo invece agire in modo intelligente, proprio come la scimmia. E in ogni situazione non dobbiamo assolutamente mai tradire la fiducia di nessuno. Altrimenti potremo finire per perdere tutto, proprio come il coccodrillo.